Ben ritrovati da Radio Città Fusico per quanto riguarda Max Macchia e 451 frammenti sonori. Beh, un po' malconcio, ma ancora vivo, ancora qua presente. Insomma, poi si rischia sempre, di perdersi in vari meandri, ma insomma, quello, come dire, l'abbiamo dato già per buono da vari anni, ecco. Insomma, la follia è sempre dietro l'angolo. Comunque, appunto, per quanto riguarda, perlomeno stasera, appunto, sono da queste parti per un altro 451 frammenti sonori, per una scomposizione che non è soltanto quella mia facciale, ecco, come qualcuno magari ha potuto notare anche tramite i social legato a 451 frammenti sonori. In realtà è l'inverso, ma non volevo insomma fare facile pubblicità, anche se poi insomma è come fare la pubblicità alla Coca-Cola. Insomma, su Facebook avete trovato probabilmente una foto appunto facciale scomposta. Beh, probabilmente è il sottoscritto, così insomma svelo, come dire, anche i vari incidenti che ci sono, oltre gli incidenti di tipo insomma musicale che attraversiamo da anni da queste parti. Beh, ci sono anche quegli altri incidenti, però a parte questo, insomma, che può dare anche, come dire, nuove idee, nuova linfa ideativa per appunto trasmissioni e quant'altro. Di fatto nasce questa scomposizione anche da quello che può essere appunto il momento sia riflessivo nella appunto scomposizione sonora, musicale, compositiva, e quindi quello che ci riporta immediatamente anche a un altro modo di costruire le musiche, che questa sera andremo a indagare. E poi appunto tramite la scomposizione si arriva anche a una sorta appunto di materia nuova, di oggetto nuovo, se vogliamo, di manipolazione che viene fatta in maniera anche piuttosto, potremmo dire, anche quasi scientifica per alcuni versi. In realtà forse c'è un'attitudine di questo tipo, nel senso sperimentale, di ricerca, ma prevede anche appunto quello che è un altrove, appunto. Quindi in questo senso qua c'entra e non c'entra l'atteggiamento, diciamo, freddo e di ricerca laboratoriale. E con Zappa che apre appunto questo 451 frammenti sonori, questa trasmissione dedicata alla scomposizione, alle scomposizioni, quindi a quegli autori, maestri e non solo tali, ma anche giovani, che sono riusciti attraverso appunto un metodo scompositivo, quindi tornando anche a una sorta di base, di base compositiva, di forse anche di tabula rasa, per poi appunto ricostruire o forse ricomporre anche per certi versi, visto poi che c'è un atteggiamento anche di questo tipo, ricompositivo appunto, oltre che legato appunto alla scomposizione del tipo sia scritturale che di fatto insomma sonoro. Scritturale per quanto riguarda la scrittura folle, pazzesca di Zappa, ma comunque molto forte, molto, molto presente nelle sue musiche. Quindi sì, una scomposizione che soprattutto avviene in ambito elettronico. Questo un po' nello Zappa che tratteremo questa sera per iniziare questo 451 scomposizione, quello di Feed the Monkeys at My Maison, Maison, anzi, per meglio dire, un gioco anche linguistico tra inglese e francese, dove vengono recuperati alcuni dischi di Zappa. Tra l'altro la famiglia da alcuni anni sta facendo un ottimo lavoro proprio di recupero e anche di edizioni critiche, poi se vogliamo di materiali di Zappa, i cofanetti che stanno uscendo legati agli storici dischi delle Mother, sono veramente, oltre che essere oggetti molto curiosi, come d'altronde tutti gli oggetti legati ad Appa diventano evidentemente e inevitabilmente anche curiosi, assurdi, ma anche di grande valore musicale, proprio per un discorso filologico di riscrittura, anzi di ricontestualizzazione dei lavori, non di riscrittura in questo senso, no, però appunto di ricontestualizzazione anche in termini appunto filologici, quindi sia attraverso i lavori cronologici fatti come voleva Zappa, e anche appunto con tutto il materiale che avrebbe voluto pubblicare per i vari dischi. Questo Feeding the Monkeys at my Maison, è un disco che voleva Zappa, che non uscì mai, probabilmente perché lo Zappa elettronico veramente poco capito, poco compreso. Ricordiamo il lavoro già passato, tra l'altro, da queste parti, fatto con Boulez, un disco eccezionale. Non è un caso che un grande autore, tra l'altro, visto sempre come grande, fermo e rigido rispetto alle musiche pop e anche di ascendenza o discendenza rock, Boulez invece fece un gran disco appunto con Zappa, proprio lo Zappa elettronico, quello del Synclaver, che andiamo appunto adesso a sentire proprio dal pezzo omonimo che dà il titolo all'album, al progetto appunto, che è uscito qualche anno fa, nel 2015, anzi abbastanza recente rispetto invece a un lavoro di Zappa previsto come uscita negli anni 80, anni 80 che avevano visto non soltanto il lavoro con Boulez e per quanto riguarda l'elettronica col Synclaver, ma anche ad esempio Francesco Zappa, il suo storico parente, così si inventò questo strano connubio con questo musicista italiano barocco con musica elettronica assolutamente incredibili, e per appunto andare a sentire l'arte di Zappa nella scomposizione, nella appunto ricomposizione attraverso appunto questo lavoro di sottrazione e poi dopo di ricomposizione sonora attraverso il Synclaver, quale migliore opera questo Feeding the Monkeys at my Maison, 20 minuti appunto di arte scompositiva e ricompositiva appunto da parte del grande, come si diceva insomma a tempo addietro, zio Frank. Thank you. Beh, quasi, quasi sinistro qua, Frank Zappa, una ironia che diventa quasi una forma grottesca, a dire la verità anche già in altri lavori vicini, diciamo, potremmo dire al rock, si fa per dire con Zappa, aveva utilizzato proprio questo, questa ironia che è talmente pestata, talmente poi anche così volutamente spinta, che diventa quasi grottesco anche a livello di suono, se pensiamo insomma anche a un certo Zappa della fine degli anni 70, quando veramente diventa una sorta di folle predicatore demenziale, dove appunto le musiche diventano fondamentalmente parodie, paradio appunto di composizioni, appunto attraverso la parodia scompone Zappa, e negli anni 80 scoprirà appunto il, non che già non conoscesse il Sinclair, però diciamo che viene fuori quello Zappa che già in lavori che poi usciranno in Civilization Phase 3, e quindi avranno anche un compimento, diciamo, rispetto agli esperimenti già dalla fine degli anni 60 a livelli elettronici, però diciamo compiuti poi anche in termini filologici, della stessa filologia poi fatta da Zappa negli anni 80, quando ha ricostruito insomma anche il suo lavoro, visto che come una parte degli sperimentatori che hanno avuto a che fare con etichette più o meno grosse, oltre insomma alle sottoetichette che curava lui, ci sono stati problemi non da poco appunto proprio nell'assemblaggio dei lavori, molte cose venivano escluse, non venivano appunto editate come voleva lui, quindi negli anni 80 già lui, prima della morte appunto, ha iniziato questo lavoro eccezionale di autofilologia, potremmo dire, poi continuato appunto della famiglia, e Civilization Phase 3 è sicuramente il disco di riferimento, insieme a quello con Boulez, per quanto riguarda lo Zappa elettronico, oltre che a gioielli che magari usciranno ancora, come quello ascoltato ora, che è Feeding the Monkeys at Mamison, dove appunto Zappa porta il livello scompositivo, potremmo dire, veramente a nuovi approdi, a un approdo che poi tra l'altro pochi riusciranno a seguire, forse anche poi questo il discorso legato allo Zappa elettronico, e forse uno di chi insomma riuscirà a portare a conseguenze il lavoro anche di Zappa, fatto anche con lui tra l'altro, e Don Preston, proprio un ex Mother, quindi uno dei miei insomma grandi sperimentatori proprio della famiglia, potremmo dire, di Zappa, con storici lavori come Absolutely Free, come Uncle Meat, ma vari, insomma, uno che è stato fondativo per quanto riguarda il lavoro delle Mother insieme a Frank Zappa. Poi Don Preston negli anni 70, varie collaborazioni, lavori in solo che poi verranno editati molti anni dopo, e addirittura collaborazioni con i Residents, e lì si disse che Frank Zappa poteva essere uno dei Residents, perché appunto dentro Eskimo c'era Don Preston, e c'era anche la faccenda dedicata a Zappa più o meno dai Residents, a Baby Snake, quindi con un ulteriore insomma così link rispetto al lavoro del grande compositore americano. Ma probabilmente finisce qua la faccenda. Don Preston poi si presterà anche alle sperimentazioni che sono dentro Apocalypse Now, come appunto ricerca di quelle atmosfere sonore eccezionali, una sorta veramente di sonorizzazione voluta da Francis Ford Coppola, che vedrà protagonista una parte dei Grateful Dead, oltre che anche appunto di Don Preston, oltre che il fratello ovviamente di Francis Ford Coppola. E poi negli anni Ottanta arriverà a coniare una sorta di musica seriamente alienante, come il titolo dell'album di Don Preston insieme a Michael Mantler, un'elettronica veramente che si scompone con batterie elettroniche glaciali, un suono che ricorda anche per certi versi del parallelo a quello che abbiamo sentito adesso di Zappa, di Feed and the Monkeys, ma che forse diventa più terreno, se vogliamo anche più urbano, forse ci riporta veramente a un'alienazione decisamente cittadina, decisamente con quell'immaginario anche noir, non più sinistro, astratto alla Zappa, ma veramente nero, ecco, alla Don Preston, come aveva già fatto insomma probabilmente in lavori che saranno poi editati dopo dalla Sub Rosa, quindi lavori elettronici, primi lavori elettronici di Don Preston, quindi situazioni che vengono riprese in realtà poi nell'85, quando esce appunto Alien di Preston e Mantler. Ancora non si sapeva di questo Preston appunto decisamente noir, appunto, e con questo lavoro si ha questa sorta di techno jazz rock orchestrato, con tanto appunto di elettroniche che spostano il tutto facendo appunto diventare un oggetto seriamente alieno questo disco, questo gioiello che per molti versi è veramente difficile anche da afferrare, un disco che, come buona parte insomma dei lavori elettronici di Zappa, veramente comporta il fatto di spostare i livelli d'ascolto e quindi scomporre anche quello che è l'ascolto, che è il nostro ascolto, e quindi trovare anche un discorso basico, appunto fondamentale, di quello che è la costruzione attraverso anche poche con una struttura abbastanza minimale, che però appunto viene da scomposizioni anche orchestrali, quindi di grosso insomma sia in termini strumentali che in termini compositivi, insomma, di Lana potremmo dire piuttosto pesante, ecco, rispetto invece alla Lana invece sottile, quasi sintetica, appunto, di questo Alien di Mantler, appunto, e Preston, che ce l'andiamo appunto ad ascoltare immediatamente. Alien, avete sentito, insomma, un nero che diventa quasi opaco, sembra quasi che sfugga appunto una materia sonora che appunto è ricomposta attraverso una strana meccanica di scomposizione appunto e ricomposizione, una meccanica che ci porta ad un oggetto alieno, appunto come questo disco di Don Preston e Michael Mantler, che già appunto avevano lavorato su materie che portavano sia in maniera cosciente una forma di alienazione, se pensiamo anche a Mantler, un po' come anche prosecutore, una sorta di misura di un certo Bertolt Brecht, portare insomma l'estraneazione e quindi a un'alienazione insomma guidata quasi verso appunto altri lidi, altri modi appunto di concepire, quindi di scrivere anche, di contestualizzare l'opera che attraverso insomma Michael Mantler, già come jazzista, con quasi insomma questo fantasma appunto berchtiano, e quello invece di Don Preston, americano, freak, con però appunto questo disegno che è anche quello di Zappa, di uscire anche appunto da quella concezione anche psichedelica, freak, per creare appunto musiche di altro tipo, di stampo, se vogliamo, veramente più legate alla ricerca, non per questo per forza andando a scomodare insomma avanguardia o neavanguardia, oppure anche sì, ma non con quell'intento, anche in questo senso, con quell'intento insomma accademico o fintamente insomma avanguardistico, che ha attraversato anche alcuni autori sperimentali che insomma manieravano, come dire, posavano la posa appunto dell'avanguardia, ma poi di fatto insomma sono poi tornati dentro i ranghi anche quasi immediatamente, insomma, cosa che Zappa, dentro appunto anche il discorso di Preston, quindi insieme alle Mother, già indicò come moda controculturale, o presunta tale, anzi per meglio dire, già alla fine degli anni 60. In effetti poi Zappa, come Preston, avevano figure di riferimento come Edgar Varese, uno dei primi compositori d'avanguardia americano, che non riusciva a fare le sue musiche perché non c'erano le strumentazioni adatte a fare le sue musiche. Era come dire una frustrazione completa per Varese, che comunque poi ebbe come dire ebbe grandi frutti poi in vecchiaia, quando appunto fu riscoperto tutto il suo lavoro. E anche lo stesso Zappa, infatti, in Absolutely Free dedica un disco inesistente, un terzo lato che non c'è in realtà in Absolutely Free, proprio a Edgar Varese, quindi facendo il massimo omaggio metafisico, potremmo dire, o paragnostico. Così insomma scherzando su una follia che è sempre stata insomma scrittura compositiva di Zappa e di Preston, anche di quello che si vorrebbe appunto più serio tra virgolette, e come questo lavoro insieme a Michael Mantler, Alien, e andando a trovare due personaggi piuttosto recenti che comunque tra le corde hanno senz'altro Don Preston, senz'altro Zappa, senz'altro i lavori elettronici di questi, Ben Vida e Greg Davis, soprattutto per quanto riguarda Greg Davis, forse con veramente qua potremmo dire jazzista quanto Don Preston, nel senso che veramente molto su sui generis come faccenda, forse più legata al suo essere multistrumentalista e quindi vicino poi anche ai grandi appunto del jazz, multistrumentisti che appunto hanno attraversato quelle musiche, tra l'altro musiche che evidentemente insomma hanno influenzato anche le elettroniche, perché no? Greg Davis come un personaggio che tra l'altro metteremo nella seconda parte di 451 frammenti sonori dedicata alla scomposizione, beh, dedito su serio alle avanguardie, non appunto quelle di Posa, che appunto prendeva in giro Frank Zappa anche ma quelle di fatto, i grandi sperimentatori insomma del dopoguerra, soprattutto elettronici, che guarda Greg Davis in questo caso insieme a Ben Vida, poco più giovani di Greg Davis, forse più sul terreno così strettamente elettronico, potremmo